un cane. E basta. Nel pane mai. Il mio pane. Che fare il pane è un'arte. E senza arte poi uno muore. Lo spettacolo Pane Nostro con Ernesto Orrico. Testo e regia Rosario Mastrota. La compagnia Scena Verticale presenta lo spettacolo L'Aborto di e con Saverio La Ruina, musiche composte ed eseguite dal vivo da Gianfranco De Franco. Una mattina avevo quelle fiche, quelle fiche bianche in campagna. Allora la mattina, verso i 4-5, ancora il scuro, menzonno. Ma che dico menzonno? Uvido proprio. Uvido stessi come muovo da voi. Che quando fai un zuanno non pensi sempre, oi come vorrei che fosse tutto un zuanno. Te tocchi se ti fai ti dici, però non ti svegli. È così in realtà. Quante volte ti dici se un potere di essere tutto non zuanno? Ti tocca se ti fai ti dici se, però non ti svegli su stesso. Beh, capisci di due un zuanno quali è? O primo o l'ultimo? E lo stesso per sto fatto, uvido stessi come muove da voi. Vido a Gesù che mi grappa una porta, granna. Drrrr, come un cancello di un camposanto. Trasaenta e trova una stanza per due volte questa con un bello tavolo grano, sei persone assettate a destra e sei persone assettate a sinistra, tutto qua faccia arrabbiata. Io guardo e penso, ma cos'è tutta questa gente? E gli ho detto a Gesù, Perché mi guardano tutti con la faccia arrabbiata? E Dido risponde, mo te ne risponde, perché qua non è posto tuo. E bravo, faccio un tremendo che me ne va. Però se Dio e me ne fai così, manco risponde. Era pa' la porta. Trrr, e ha chiuso una vuota. E su da fora aveva fatto già giorno. Allora invece torna alla casa, me ne vado dritto in campagna a cogliere quelle fiche bianche. Un giorno appresso, la stessa cosa. Sembra la mattina, verso i 4-5, caportanna ancora il scuro, menzona nata vuota a Gesù. Capite che sempre menzona, ma uvido proprio, uvido sempre lo stesso come muove da voi. Vido a Gesù che mi crappa una tota porta. Drrr, ma sto tagrapa da forza, qua faccia scocciata. Sei insistente tu però, mi dici. Mo, traso e trovi stesse persone assettate, sembra qua faccia arrabbiata. Picchi ieri me ne hai fatti, ha giù fatto a Gesù, un è certo un'accoglienza degna di Dio, perché tu non si degna di Dio, risponde pure di qua faccia arrabbiata. Provi che non hai mai fatto male a nessuno, hai detto? E picchi un sero degna, o vedi se aggiuda, fa Gesù, cance nel discorso. Ma guardi le persone assettate in un tavolo, e un c'è, mi guarda attorno, e un c'è, poi vedi andare a tavola una seggia vacanta, un c'è fa sì, c'è la seggia vacanta, e invece c'è, fa Dio, guarda mio Dio, che c'è. Che gli guardami di questo, gli ho detto, quando vedi che c'è la seggia vacanta. C'è la seggia vacanta, fa Dido, perché non è ancora assettata. E che volere si dice, gli ho detto io, che io sono Giuda. Hai detto, fa Dido, ah, ti finisci questa scherza a prevede? Hai detto, ah, un sungo Giuda io, sungo Vittoria a sciolla io, quanto è vero Dio. Voi dici che è un sungo vero, allora, fa Dio. No, non voglio dire questo, ha Dio detto. E allora, com'è vero che io sono Dio, tu sei Giuda. Nato tu, tu Giuda. E perché avresti Giuda? Perché hai tradito la Chiesa, fa Dio. Io? Aver tradito la Chiesa? E quando aver tradita la Chiesa? Pensici buono, fa Dio. Ah, non tengo niente a pensare, ha Dio detto. Non ne tengo peccato a pensare. E perché, fa Dio? A due fantasima non hai fatto peccato. A due fantasima. Ah, mi stavate facendo un processo, ha Dio detto. Si guardano l'uno con l'avuto e poi una tota mi dice Gesù. E perché? A due fantasima non hai fatto peccato. Ha Dio fatto peccato e non hai fatto peccato, gli ho detto io. Con una sepita vita mea, una tuista qua sopra tutti i santi giorni che hai creato sopra la terra vita mea, o Cernuvolo. Come ero fatto? Ah, che vedo un mondo acqua sopra per farcelo tutto. Perché è bello, bellissimo, è un paraviso. Pure io se stare in paraviso non facere peccato, perché qua si sta buono, buonissimo. Non soffre sa fama, non soffre sa sita, non soffre se niente. Non ti manca niente in paraviso. In paraviso stai proprio in da pace di Dio. Ma la vita mia è stata da bascia. Una stata bravissima, è stata una vita tribolata, che io a 28 anni avevo già 7 figli e a 13 anni e mezzo, da Catania quando un figlio aveva 13 anni, a lui padre cacciavano a segno, ma non è venuta. Loro dice che mi hanno sposata, ma dice che mi hanno venuta. Un era padre, ma era che mamma aveva sposato quando io avevo 8 anni. Non era patrono, che a patrono non l'ho mai conosciuto. Io sono una figlia bastarda. Che patrono, ma mamma, a prima mi si incinta e poi è sparito. Fatto sta che a 13 anni e mezzo loro mi hanno detto che avevo fatto già granna, che ero oramai la signorina già granna, ma io non ne ho mica accorta la mia, che la mia mi sentì sempre la stessa, mi sentì diversa. Quante volte io cavo, non andavo a porto con i compagni di mascole. Ma subito dopo i mestruazioni, mamma mi ha detto, amo andando quei mascoli non giochi si più, se no resti incinta. Me ne è di accorta perché mamma mi faceva sempre domanda, tu stai enno, che stai facendo, con cui stai senno. E un patrigno è diventato sospettoso, mi guardava sempre come stavi per fare un peccato mortale. Ma chiude tutto, me ne è di accorta, passando in un circolo unione. Carda ci passavo tutti i giorni, dietro a nonna. Chiude tutto, me ne è di accorta, come mi guardavano i gente, perché prima non mi guardavano mai, e poi mi guardavano sempre. Carda funzionava così. Poi passaggi di guagnone, c'erano tanti posti di blocco, una presa all'avuto, e poi alla fine c'era la dogana. O primo posto di blocco, Nandubaro 900, o secondo, Nandubaro centrale, o terza, la tavernetta, e arrivata alla chiazza, trovavasi la dogana vera e propria, non duce con l'unione. I doganieri principali erano Domenico Bello, Donio Pesolano, Vincenzo Bannuolo e Carmelo Brutto. O più brutto era Carmelo Brutto, o diceva però la stessa che ci chiamavano apposta. Qui capì di nivore come fumo, o baffo, pure nivore grosso, e la faccia tutta contata. Non ha mai sentito dire una cosa sensata a quella nata fino a quando è morto. Di vernivore, curto, o contrario di Domenico Bello che era gauto, biondo. Stava in assettata andando al circolo unione e giocavano a carte, li chiamavano i geometri, perché ti misuravano con lui che o stessi non avessero un metro. Alle posti di blocco ci stavano più zin, allieve, e alla dogana ci stavano più grandi, i geometri, e mezzo i geometri comandava un ingegnere, Domenico Bello capocandiere, sempre qua la sigaretta mucca, sempre qua la camisa alla moda, ma sempre russa o celesta, sempre sbottonata, sbottonata lo pietto quando faceva freddo e sbottonata la panza quando faceva cavolo. Con cambi di stagione, calzavo, facevo buttone. Domenico Bello stava sempre stracato su una seggia con quando aveva andato stanco, per non gli scappava una mosca. E quando il capocantiere girava dalla capa, tutte late, giravano appresso e lui che si attaccava un guardo. Ti sentivi un guardo come quando ti ci appoggiavano i mani. E partiva la radiografia, sentivo lo stesso rumore come quando ti fanno una radiografia ospedale. Copigliava di gambe, con di spade, qua in pirto e qua in culo. Poi si guardavano e si passavano informazioni, solo con lui che, senza parole. E poi cangiavano posto. Quelli che guardavano di culo passava le gambe, e quelli che guardavano di gambe passava lo culo, e così via. E poi si guardavano un'altra volta, come per dire, tenesi ragione, compà. Pure tu, compà, sempre senza parole. Bastava un movimento della bocca o dalla capa, bastava un lampo da luce, faceva una radiografia e poi si passavano i lastri. E sui pilastri c'erano due gambe, due spade, due pietre, due culo. Che se mettessi insieme tutte quelle lastre, pareva fotografia in un mostro. Perché? Mani, braccia e pietre mancavano sempre. Tante volte mancava dalla capa e a volte mancano pure i gambi o pietre secondo se la lastra viene scartata. Un fastidio, capisci? La paura che ti mettevano, la vergogna che ti mangiavano, a loro non importava di niente. Che a loro mica vedevano una persona completa, loro vedevano solo un pezzo che faceva comodo a loro. E camminava così qui. Cercava un nuovo sedere, un bacino tenne rigido, rigido, i gambe stretti, pure i gambe tenne rigidi, rigidi. Tutta la persona tenne mezza bloccata, così. Ammucciavo pietto con le mani, così, che mi è venuto un pietto tanto, ma aveva gestito alcuna volta. Non tengo più un saciglio che fino a fatto. Camminavo e mi tenne tutta quanta, strinta, strinta, così, così, così, così, così. Così. Così. Qua era tutto bloccato. È bloccata così, camminavo rigida e rigida come un tronco. Bloccata così non potevo anche camminare veloce, e il tempo non passava mai. Come quando ti insonni, se la notte vuoi scappare, vuoi scappare, non riesci a muovere neanche un millimetro. come quando è quelle poche metri non andavano, sentate chilometri, come quando la casa non la spostavano, sempre più andando, non arrivava mai. La chiazza diventava più grande, la via nuova diventava più lunga, un tempo, una cosa infinita. Mi pare che è passato un secolo, quando finalmente girava un tuo vicolo. E passando da quel bar per me, era una vera tragedia. Perché era sempre, a tanti tengo proprio a odi bari, un nipozzo proprio vivo, non ci traso mai. Sarebbe per me potermi chiudere, e potermi far saltallare tutto quanto. Capur mo, quando ci passa andando mi sento tranquilla. Fatto sta che a 13 anni minz, un patrigno mi ha detto, Vittò, e ho risposato. E New York si presenta alla casa con un uomo di 26 anni, un doppio, il letto a me. Hanno fatto tutto per non mi far vedere. Mi hanno chiamato quando ha già fatto settà, mi hanno fatto sedere dallo posto che stava più lontano, che deve essere settata una parte e di alata, due lati più lungo del tavolo, mamma con patrigno due lati più corto. E su quella tavola mi stanno con le bottiglie che non riusciva anche a vedere. Ho visto solo a piazzicirli, a subire in bottiglie, vedi solo i capirli. Dovresti vedere una bocca a metà, un occhio, una ricchia, anche una volta una mezza faccia. Cannando c'era sempre una bottiglia punata, una tancora, che non riusciva mai a vedere la faccia completa. Di femmine, loro potevano vedere tutta la persona e poi ne facevano a pezzi. Noi potevamo vedere solo a pezzi e poi avevamo immaginato tutta la persona. E per noi funzionava tutto il contrario. Allora che interessavano i pezzi potevano vedere la persona completa, a noi che interessava la persona completa io potevo vedere sulla pezzi. Aspettavo due video causato, ma prima di causare un patrigno mi ha detto, mo Vittoria se ne va a dormire che noi granna vi ma parla. Io che aspettavo due video causato gli ho detto, me ne fa il suo, no, gli ho detto, veramente che vuoi parlare ti caccia la tavola, a tavola se la caccia mamma fa dire, se non ti fa il suo, no, tu fai vini. Facevi tutto per non mi fa vedere. Non riuscì a capire più perché. E ho perché ho capito quando è arrivata alla chiesa. Ho capito veramente che veniva all'altare. Ho capito veramente che veniva zuppichienno. Veramente che strascicava una gamba presallata. Tanto ho capito che era sciangato. Un giorno che mi ha sposato. Cazzino aveva avuto la poliomielite. E a tanto era rimasto sciangato. Ma non sciangato poco, sciangato assai. Sciangato allo punto che ci ha messo 10 minuti a arrivare all'altare del portone principale. E gente mi guardavano, pensavano, mo se ne scappe. Come fa a sposare un marito sciangato? Va bene che è vecchio, va bene che è brutto, va bene che è quasi un mostro, ma pure sciangato, come fa a sposare? Tutti mi guardavano, solo il previto no. Solo Don Camillo mi guardava tanto d'imbarazzo che via. E quella volta che mi incrociavo con lui e che pareva che diceva, figlia mia, se ti vuoi sposare, sposati pure, ma se non ti vuoi sposare, io ti capisco io, ma ti capisci pure Gesù Cristo che sta inghiovato alla croce, ti capisci pure di lui, capisci che c'è un limite a tutto. Ma a parte il previto, mi guardavano tutti, pure mamma mi guardava con gli occhi sbarrati, tanto dalla paura che scoppiava di un scandalo, tutto il mondo mi staccava gli occhi anguri. Ma che fa, poveretti, che fa? Guardo il sposo che camminava strascichenne verso i miei e per la prima volta finalmente avuto un faccio. Aveva la faccia tale e quale a quelli che avevo immaginato quella notte, mettendo insieme i piazzicirdi, che mettendo insieme i piazzicirdi mi aveva vissuto un mostro. Ah. Ma pensavo che avevo sbagliato anche una cosa, pensavo che avevo messo anche un piezzo in un posto sbagliato. Pensavo, come potevi essere un mostro così brutto? E invece ero riuscita a tale e quale, avevo riuscito alla perfezione, l'originale, era brutto stesso come mio, aveva la stessa faccia di mio, forse era pure un pochino più brutto. Solo che non avevo mai visto causato, e ho riesco, non potevo immaginare, non potevo immaginare che era pure sciangato, ma non sciangato poco, sciangato assai. Sciancato allo punto che faceva uno sforzo tremendo in mente che si appressava all'altare, strascicava di piedi, chiudeste che potie, si trave di gambe quei brazzi, spatuliava come un paccio, faceva tanto di quella fatica che faceva impressione. Oh madonna mia, ha di fatto. Non mi posso sposare, non mostra così. E di arrivare all'altare, tutto insieme, con un sudore che colava in faccia, con già faceva più manca respirare per quando ci eravate distrutto. A parte per la fatica, ma a parte pure per la preoccupazione e come potete finire la commedia. Preoccupato allo punto, come diceva anche a guardare. O previto, comincia la funzione e poi arriva il momento cruciale. Vuoi tu, Giovanni, sposare la qui presente, eccetera, eccetera? E dite ancora anzimeno, dice di sì. Vuoi tu, Vittoria, sposare il qui presente, eccetera, eccetera? E dammi fermo, perché mi viene in mente, notte che gliela stata a casa rosa bugasso. Ma ti scusiamo, agli ho fatto a Gesù, ma mai gli è scappato niente dalla casa? Sì, ma, fa Gesù, che hai risposto? Avevo conto dopo che gli ho risposto, ma gli è scappato niente dalla casa? Sì, ma, dici nell'emmino che hai risposto, zistia Gesù. Vuoi che l'acqua si abbuffi dalla casa mi salta dall'aria? No, non voglio questo, fa Gesù. Voglio solo sapere se hai risposto sì o no. E chi gli è tutta sta fretta? Ma anche se mi avessi sposato con voi. Eppure voi queste cose non avrebbe già sapito. Gli è stato tutto con la bocca aperta e gli è scappata la casa. Andiamo a tempo proprio tanto si abbuffava dall'acqua. Gli è calata la pasta alle guagnone e gli è tornata nella tutta rieta. Ha trovato pure un cancello già aperto, convidiamo loro di sapere come finisci. Vuoi tu, Giovanni, sposare la qui presente, eccetera, eccetera? Ma per convannante, fa Gesù, hai già detto sto fatto. Usaccio che hai già detto, ma a capo a me non è mica la macchinetta. Sono piglia primo fatto, non mi ricordo più niente. Vuoi tu, Giovanni, sposare la qui presente, eccetera, eccetera? E dire ancora in Zimene, dici di sì. Vuoi tu, Vittoria, sposare il qui presente, eccetera, eccetera? No, non mi posso sposare, non mostra così. Agli ho pensato, poi guardo, o prevede aspetta, tutto il mondo mi guarda, pure Dio mi guarda. Io guardo un dall'occhio come mi dice, mi dispiace ma proprio non ce la faccio. E da quel momento succede una cosa che non avrò mai potuto pensare. Da quell'occhio c'è una sofferenza che non avevo mai visto in dall'occhio nessuno. La stessa sofferenza quando passava andando a cercare l'unione. Da quell'occhio c'è la stessa sofferenza da me. Cado portone all'altare, pure di avessi sentito quell'occhio come suravano, pesavano, ributavano in tutti i maneri. Pure a Dio è proprio un secolo arrivare due portoni all'altare. E non solo perché era sciangato, ma per come gente guardavano, pesavano, squadravano. O torna a guardare e mi guarda con una dolcezza che non avevo mai visto in faccia a nessuno. E un vedo più un mostro, un'anda mia. Vedo una persona gentile, con l'occhio parecchio mi diceva, sì, sono brutto, forse sono pure brutto assai. Forse sono addirittura un mostro, ma vicino a me non ti tocca nessuno. Manco non capito, ti può non toccare. Amo chi è nivoro, a quando fai bianco. E gli ho detto, sì. La chiesa è cominciata una specie la mia, si toccava, non si guardava, non se ne poteva fare una ragione. Meglio ripetuto, sì, un'altra volta. E mai gli ho sposato. Questo marito c'è di stata 14 anni e c'è di avuto 3 figli mascoli e 4 figli femmine. E poi è morto. Il limbo granuloma. Faceva il cielo comune, che aveva nato posto per la gamma malata. E mi ci avevi affezionata subito. Solo che subito dopo ha cominciato a cangiare. Ha con un sputtiene perché si era sposata una guagnonedda, che chiude tutto, un sputtiene carmono brutto. Ha pigliato la tua creatura? Pigliannello con cresce, uscottia. Ma mi veniva da chianci quando ti rispondia, mi posso vantare che agli sverginata i, tu puoi? Mi posso vantare che tenga la moglie più giovane di tutti, tu puoi? Si vantava. Dire che avessi stato sempre sfottuto perché non voleva nessuno, perché era vietio brutto e sciangato. Dire che avessi stato sempre sfottuto perché era un mostro, ma si pigliava la rivincita. Ah, un verde occasione. Per dire che Dio mi aveva sverginato, per dire che Dio aveva moglie più giovani di tutte. Quelle che gente aveva l'amore dall'invidia. Manco due mesi aveva perso tutta la gentilezza che aveva. Manco due mesi e aveva diventato sgarbato. Per conto fai bionda? Arrivato allo punto di medicina iura. Bionda come? Bionda come Raffaella Carrà. Perché? Non ti piace così? Ma pure per cangiare, c'è detto. Quando vai al parrucchiere, per esempio, tu chi dici se? E dici se fammi capire come? Come un solito, io dico. Come un solito. Io, un solito? E sempre la stessa minestra? Non c'è di vestito più, ho detto, perché tu non sei sempre un solito? E sei pure un solito brutto, senza capire, sciangato. E da botte a fa male. E a poco mi c'è di sempre più sanata. E tanto mi ci viene pure un pianto. Una volta mi ha venuto un pianto proprio. Veramente che facciamo quelle cose in dulietto. Dite se a me si aggastina e ha detto, Vittò, non ci puoi fare così però, eh? Ah, così mi caccia tutta la poesia. E se la poesia cerca se mi anzicama, gli ho detto una trosa. Certo, gli ho detto. E danno tutta a botte, che dice che è diventata scostumata. Ma che vuoi, mangi, si vive, si dorme, si che ti manca? Mi manca quelli che ti hai visto dall'uecchio, andando all'altare. Quello mi manca. E che c'era dall'uecchio mio? Non c'era niente, di te. Niente c'era. Hai avuto allucinazioni. E siccome ti cercava la poesia, ad un apote a mai trovare, o poeta la cercava di sempre, tutte le sante notte che ha fatto Padre Eterno. E così hai avuto una figlia presso al lato, un avio fatto uno che non aspettava nato, con un piede a capo e con l'altro faceva andando telai, sempre con terrore di mangiata da capo. E non era questa la vita che vi ho pensato. Pensate per mia, averlo lassato. E questo aveva l'asseno quando ebbe rubato Eterno. Solo che poi gli è rimasta incinta e gli è rimasta fregata. Catarini Gioia, per esempio, di dà lassato marito, ma era chiamato diplomata, era maestro di scuola, era pure i figli già grandi, non come a me, che non aveva soldi né lavoro né niente. Custato abbia lo bisogno. Non aveva solo bisogno di Stato. Ma almeno noi eravamo affortunati. Eravamo affortunati perché il marito mi aveva gamma malata e aveva dato posto comune. Ma quelle povere femmine che non avevano manco un soldo non sapevano più come era fare per campare. E quando rimanevano incinte e chiedevano la collaborazione dei mariti, il marito aveva sempre la stessa risposta. Arrangiate. E si arrangiavano come potevano. Si arrangiavano a forza. Si arrangiavano qui man mano. Che sapesse che ci fresse di viva e non sapesse se ne stesse morta. E a voglia dice la marita di sta attente, che viene paura e rimanato d'ingente. I mariti sapevano solo dice, non ti preoccupa cosa c'è che gli fa, ma chi sapiene che me ne fa, che se me ne fa, cazzissi i fric, che se me ne fa. Capo quando i fiamme ne rimane incinte, sembra i babbalucchi che gli erano. E così i fiamme non sapevano più come ne fa con i mariti. Un figlio viene accattato, che subito ne aspettava uno nato. Affino a quando Rossi Tunuzzo un ha detto, perché facete come a mia? Perché tu che fai? Pregamo a Donne Puddino. E t'ha fatta grazia. E certo che mi ha fatta grazia. Se no che vuol dire a fa? O non vedete che dopo i primi due un aiuto più figli? Su 3 anni con un aiuto più figli? E vero hanno pensato tutto quanto, su 3 anni con un aiuto più figli. E da... hanno avuto come un'illuminazione. Ma come ci abbiamo pensato prima? Proprio noi che siamo sempre devoti alla Madonna di Puddino. Con le dita della Madonna di Misericordiosa. Con le dita della Madonna Misericordiosa. E hanno cominciato a pregare. Madonna di Puddino, Madonna potente, pure stanotte non fa succedere niente. Madonna di Puddino, Madonna potente, pure stanotte passamola contenta. Madonna qua, Madonna da, Madonna supa, Madonna sotta. A furia per sempre Madonna. Ci pigliavo tu su e così hanno cominciato a pregare tutti i santi della chiesa. Hanno pigliato l'altaro maggiore, non c'era stato manco un santo. Hanno passato alle sante meno importanti, poggiate di colonne, e finiti i santi meno importanti, poggiate di colonne, hanno passato alle sante di più scarpe della sacrestia. Finita la sacrestia, erano solo scandinati e danno rimasto delusi perché ci hanno trovato solo un santicide, poveriedo, ținuțin, senza pretese. E tată în arasă, ducea, nu vreau scurdat. Cum să vei mai înțelege un om? Santustachio, appunto. Che a prima vista un bel rimangono santo. Ma lo postino entra in pregatura, dite. Solo che, cui chiamavi una maniera, qui nata, aveva sperato solo con un santo vincioso. Perché, cui chiamavi stacchio, anche un attimo pure un tacco. Come una cosa senza importanza, una cosa che potesse pure zampa su tipi. Però hanno pregato stesso per Dio, eh? E così, qui pregavano sante cunato, qua in qua forte, qui chiama qua forte, il paese pare un'orchestra. Mi è rimasta impressionata di tanta devozione. Eppure il prete, Don Camillo, pure Dio è rimasto impressionato. Non aveva mai visto tante fiamme nella chiesa. Non sapeva neanche esistiano, tante fiamme nel paese, anche una volta la domenica. Ma erano tutti i santi giorni che creato Padre Eterno, da mattina alla sera, non c'era mai fine. Manco qua forse, potete cacciare fuori, avete chiuso il portone, se non si cincavano a niente. E se non pregavano alla chiesa, si pregavano stesso. Si facevano i servizi, pregavano alla casa. Si facevano i lavori, pregavano a fuori. Pregavano dove si trovavano, trovavano. Il paese è diventato una chiesa a cielo aperto. Faceva impressione. Il previto pensava che è stato un miracolo. Pensava che è stato più Dio, pensava che è stato più belle messe che Dio faceva, più belle parole che Dio diceva, e se ci sentiamo importanti, se ci sentiamo tanto, se ci sentiamo quasi quasi un santo. E piano piano ha cominciato a sentire veramente un santo. Hanno perfino incappato nella sacristia, qua a Cipri, che segna che aveva la faccia, qua a matite che si faceva quando scavate. E poi a dice la missa. E gente guardavano incantate. Dio si pensava guardando incantato perché Dio era santo e gente pensava che passava assai e Dio era morto e così è stato ha morto dopo che i fiamme hanno sparito tutte quante e la chiesa è rimasta deserta, non c'è rimasta neanche l'ombra in la fiamme a parte la statua di Santa Rita a mezzogiorno che ha pigliato la sfera di sole. Ma perché i fiamme hanno sparito tutte quante? Si chiede a Don Camillo con ci passava il suono. Ah, a proposito di sparisci i fiamme tutte quante, gli ho fatto a Gesù. Mi facevo scordare la messa, ci vuole Don Camillo per mi ricordare. Lascia perda Don Camillo, da Gesù. Ma dici perché la chiesa è rimasta deserta? A parte il fatto, gli ho fatto che a Don Camillo gliela sapere per forza che è morto, che mo c'è patrono Rodolfo, ma poi la messa una pozza saltà. Ma date che mo si con noi, fa Gesù. Non c'è bisogno, e purgò la missa. E invece gli ho fatto, ma perché c'è lì? Fa dire, c'è lì perché goia a festi San Giovanni Battista, il patrono del paese, gli prega San Giovanni. E invece lo prega da, fa Gesù, lo prega se qua. E non è mica la stessa cosa, di fatti. Non è la stessa cosa, di fatti, fa Gesù, è meglio. E perché è meglio? Ma perché da, te ne sa la copia, e qua? Tenis l'originale. E a due sto originale. Uvi, fa Gesù, indica in un tavolo grano. Uvi, cu. Sungo qua, fa con i qui da settato lo tavolo grano. Però non c'è simili. E usaccio non c'è simili, fa qui. Mi disegnano tutto come dice da capa. Ma veramente se tu, allora te lo pigli e se cacci un fazzoletto. Che vi ha attorcigliata la gola e si vede una cicatrice che girava attorno, attorno quello. Ma allora se proprio San Giovanni Battista, ma scusarsi, ma gli ho permesso, un pannendo. Ma benedici pure il pane, che i figli mi aspettano un pane benedetto. O benedicimo, benedicimo. Beh, mamma chiarito fa Gesù. Entra mente che io facevo qua a capa così, San Giovanni Battista facciamo chiarito, mo chiarito. Beh, mocca mo chiarito fa Gesù. Non dice se la chiesa è rimasta deserta. A chiesa è rimasta deserta, agli fatti picchi, i santi hanno fatto i menefrechisi e i fiamme non c'erano per sotto. Ah. Pure che avevano pregato tutti i santi della chiesa, non c'erano mai state tante fiamme in centro come quell'anno. Quell'anno c'era stata una vera epidemia, perfino Rosito Nuzza è rimasta incinta. E siccome hanno passato 3 anni, con i otto figli, quell'anno hanno avuto 2 a una volta. E così i fiamme hanno sparito do tutto. E la chiesa è rimasta deserta. A parte Pierino, sacrestano, che diceva che aveva visto una quantità di fiamme, pari un esercito, girava attorno alla chiesa il sabato notte.

E hanno deciso, basta con rete. Alcuni dice pure la cacciano per tutte, st'usanza, ma che serve sta tradizione stupida e inutile? E l'altra non sta subito d'accordo. A che serve sta tradizione stupida e inutile? Pur l'uomo più all'antica, pur loro non state subito d'accordo. A che serve sta tradizione stupida e inutile? E quelli che avevano stato tanti anni all'estero dicevano, a Milano, non si usa. Lo stesso a Torino faceva nato, manca a Colonia, ci è nato ancora. C'è stato. Perfino Domenico Scendro, che ha detto Rirenno, a New York, non se ne manca chi è. Da, proprio tanto, si è trovata passia Carmela, a Ruscalupa, a Mugliera, che ha detto, se ti piacia, ci rimanies. Da, hanno avuto un momento di sbandamento. Pu, appena Carmela, ha sparita, arrivata a curva, hanno ripigliato. A prima piano piano, quattro quattro, e alla fine hanno rubiato sempre più forte. Ma che serve sta tradizione stupida e inutile? E così gli uomini hanno fatto la guerra. Camone è diventato tutto moderno. A che serve sta tradizione stupida e inutile? Diceva, dunque si trovava. A tu passavo, se passavo, c'era uno che diceva, a che serve sta tradizione stupida e inutile? Ripetiamo sempre la stessa cosa, come hanno detto scontato. Diventavano sempre più nervosi. Litigavamo tutti i santi giorni. E quando una volta e quando è nata i telai li trovavamo scasciati. E spriculia go, e spriculia domani, alla fine abbiamo lasciato perdere il corredo, pum, vedi a ruotare i figli. E così loro hanno potuto tornare a si sfucare, come a loro pareva e piacere, e noi abbiamo potuto tornare a ne prestare. Come a loro pareva e piacere. Ma quando poi Fiamma era rimasta incinta da capo, un ritornello tornava lo stesso, arrangiate. E si arrangiavano come potevano, si arrangiavano a forza. C'è stata Carmela Pelaghedda, per esempio, che si è tolto tavolino. Se mamma ci ha fatto scalenni in montagna, dicia, un già pozzo fa pure saltando tu tavolino. Si è imbriacata, la suora aiutava Antianà e le saltava con il tavolo cavuto. Tui 50 salti ci ha fatto con il tavolo cavuto. Che per fortuna si è rotta la caviglia e si è venuta a fermare. Diceva che stavi morendo da risa per quando era imbriaca. Sulla capo stavi morendo veramente e no pa risa. Si arrangiavano come potevano, si arrangiavano a forza. Si arrangiavano qui man mano, che sapesse che ci cresse si viva e non sapesse se venisse smorta. E tante volte si arrangiavano a solo, con un fiero appuntito, così, alla ciaca, perché una Madonna in capo punto giusto, perché una Madonna non ci stenne i piedi. Io facevo dappertutto, sul tavolo della cucina, sulla tovaglia. Ancuno faceva pure su la paglia. Ci inseccavano fir, sonde, gommine, ci inseccavano tutto quello che ci trasia. Come morì di tetano, con di prezzemolo, così via accennerano dall'acqua udente e così ci inseccavano dall'acqua udente. Si faceva di tutto, perché era la disperazione che ti portava a tutto. Come a Zia Caterina a Giacchino, che aveva scivolato per scale. Solo con ci aveva scivolato per scale, si ci aveva gettato da stessa. Era una guerra che non aveva mai fine. Una guerra che comportava medaglie, onore, pensione. Ma solo morte, ferite e infezione. Come a Zia Ceppa, Rosa Amberto, Lina da Varata, che hanno morto due mammana, cupa infezione. E cu dissanguata. O come a Rosito Nuz, che era come una suora femmina. Aggio trovata che aveva in braccio un tuzzino, mi ha detto, Vitto, chi te la creatura? Che te ne sei tu? Aggio fatti, che la creatura sta buona. Però in faccia avevi un'ivora, avevi un'ivora perché stai morendo, aggio detto. e gli ho chiamato dottore. Mo destino suo è oramai prescritto. Meno male che ha aiutato io a preso. Nessuno mi ci vuole portare, ma c'è giù a forza, fa che mu sentire. Dice che la notte prima non me ne avete sempre. Sembattia, chiamate, dicevano nuore e figli. Sembattia e basta, a nessuno più. Noi siamo qua, noi facciamo la pena, e a noi ne chiamate mai. Ma voi ci siete già, aiuti, che vate a chiamare a fare? Ah, gli ho trovato che non parlava di più. Mi solo guardava da me, gridava sulla mente. Aiutami, aiutami, ma che ti voglio aiutare? Suore c'è da me, che ti voglio aiutare più? Ho destino suo ormai, era scritto. O come è successo a Zangicca, che è rimasta zoppa dopo operata, e la tanna è camminata storta fino a quando è morta. Luigini Cacianuovo, che è diventata sorda dopo che aveva potuto chinino, e Zastedda, che è diventata muta. Capo quando insieme a Zangicca, Luigini e Zastedda, erano pure ridicoli. Ma ridicoli in una maniera che non li potessi guardare. E quando insieme a Zangicca, Luigina e Zastedda e gente si grappiano e dicono spostate che passano i reduci. E i reduci erano loro tri. Zangicca, che era zoppa, quando hanno operato. Luigina, che era sorda, quando hanno potuto chinino. E Zastedda, che era mutato. Quando non mi ricordo di chi. Quando era rimasto muto non poteva dire più niente. E quando Zangicca vedeva dopo pullman, i siano tutti tre insieme, picchi. Luigina, che era sorda, gridava l'autista. Zastedda, che era muto, scappava lo fermà. E Zangicca, che era zoppa, vedeva dopo pullman. E quando erano tutti tre insieme alla via 9, i genti dicevano: Zangì, pigli su pullman, pigli un cazzo che ti frega, risponde Zangicca. Così distinto, ma dice pure la verità, che se imbada, aveva nato un problema. E così, lato due, aiutavano a Zangicca e Zangicca aiutava da loro. A ognuno mancava una cosa, ma tutti e tre insieme non mancava di niente. Era una specie di associazione, una specie di cooperativa. Ad è stata la prima ad un in Calabria e nessuno ha funzionato come a loro, che a Zangicca non ha mai perso il pullman. Ma questo che dice chi femmina, lo facciano lo stesso. Lo facciano pure con rischio di morire, lo facciano pure con rischio di rimanere sciangata, pure con rischio di rimanere muta, sorda, ciecata, lo facciano pure a fronte del pericolo stesso. Non c'è niente più scuro della notte, dicevano i fiamme del paese. E se ti ci ingappano tanto, rischiavi sul carcere? Ma loro facciano lo stesso. Mi hai incarcerato un anno, che ha incarcerato a vita, dicevano. O facevano per la miseria, per la fame, per la vita disgraziata. O facevano perché avevano sempre un figlio attaccato al pietto e andate che aspettavano dalla panza. O facevano perché un anno per loro, una via 12 mesi, ma 9. Io, per esempio, a 28 anni, avevo già 7 figli. E da 7 anni di matrimonio ne avevo fatti già 6. Da 7 anni di matrimonio, 6 volte 9 mesi, l'avevo fatto. Che a piani hanno un maglio più vestito i piedi, che avevo sempre mucciato dalla panza. Per 7 anni di una panza comincio più manchi un mondo a stanza. A volte mi viene in mente un'estate, e quando avevo ancora 13 anni, e quando è venuta al mare con mamma, è stata la prima volta che è venuta sola al mare noi due. È venuta con pullman, a 114, che ad noi spiaggia un tenere di nome. Tenere i numeri, pigli gli stessi numeri di caselle della ferrovia e da Cerno 112, 113 e 114. E noi andiamo sempre a 114, che c'era la spiaggia più grande, qua si avvia fine. La stata aveva finita e un mare era rimasto deserto. All'umare non c'era proprio nessuno, c'erano solo noi due, sugli e mamma. Mettiamola con quel riemo, come due guagnonelli, compriamo chiù a mia figlia, ma due suoi ricette. Non l'avevo mai vista, mamma contenta. L'avevo sempre vista seria, trista, preoccupata, come se Didda avesse nata già grande. Ecco, Dio ne è dato come una prezione. Apprezzione e come poteva di essere guagnola. Non abbiamo fatto niente speciale con Dio, no? Con sole coperto, uccidere brutto, mare agitato, che manca. Non si può dire che era una bella giornata. Ma è stata più buona. Non mi ci ho mai sentita così buona. Ma ricordo che avevano costumiato celesto e qui da uno piezzo ad un insieme due camicette come a due bacchette e ad un si vedeva intrancavata e i costuledi che mi spuntavano fuori sullo piette mi fatto già grande. Mi sentiva così delicata che mi spostavo da un vento. C'è stata una signora che ha passato con cane, mi ha crezzato i capelli e mi ha detto: a qua appartiene sta bella guagnona? Io guardo a mamma e vedo mamma che gira la capa alla tua parte tanto d'un prezzo che via, però ci scappava da risa. Ah, mi sento tutta preoccupata. Ballavo su base a birrerio, ballavo il rio, giravo come una trottola, era così veloce che mi volavo nei gambe, mi sentivo leggera, leggera come se i piedi mi toccassero in terra, mi sentivo bella. Non so perché mi viene in mente sto conto che ho fatto a Gesù. Forse perché andavate a me è stato un momento più bello. Che poi non viene mai in mente da solo. Viene sempre insieme a quelli più brutti. Di quando ero rimasto incinta l'ultima volta. Avevo 28 anni. Avevo fatto già 7 figli. E sentivo così disperata che mi si scappava due pianti. A Giovanni. Già così non ce la facevamo di annando. Come facciamo? E Dio ha risposto come a regola. Arrangiati. Ah. C'era una femmina anziana che faceva. Questa femmina mi faceva paura. Brutta, basciaredda. Ne vorrei un vestito e ne vorrei una faccia. All'opposto della faccia aveva una carta geografica. Pareva una fantasma. Al sino con Rosito Nuzio ci passavamo un nante. Avevamo pure che la porta si crepia e gli sia. Allora scappavamo come un lampi, ricchio lo ritieni chiummo, ricchio lo ritieni chiummo. Ripetiamo scappendo. Che aveva imparato nonna, pure fa sempre di fantasmi. E passando da nante ripetiamo sempre, ricchio lo ritieni chiummo, ricchio lo ritieni chiummo. Pure per questo avevo paura quei giorni che ci agli tornata. Perché ho pure cazzina, ma vi ha potuto sentire. Stai proprio allo limite del paese, a chiamare una medichessa, perché addrizzava l'ossa alla povera gente. A chiamare una medichessa, perché curava la gente allo posto di un medico. E c'erano portando via mani ingente, quello che non aveva soldi a spenne. Ma c'era una mucciuna, perché pure che l'uomo non sapeva, no? Non ammettiamo. Allora aveva fa a finta e ci ammucciamo. E così ci aiuta una mattina presto, come fai da nessuno. Camminavo l'est all'est. I denti mi battiano tanto di nervoso che via. Sa che ci trasse viva e un sa se ne esse morta, dicevano i femmini del paese. E poi ho pure tu fa un grudo, senza anestesia, senza niente. E un grudo e un nudo loro. A morire, dicevano sempre i fiamme del paese. Questo pensiero in capo era che ero già mezza morta. La porta era aperta, mi faccio coraggio, traso e altro spada alla porta che preparavo il caffè. Assettati, mi dice una volta. E uno mi guardava come se fosse una fantasma e mi aggrizzini carne. Entra mente che parla e mette a mazzi prezzemolo. Ubite se tu bello mazzi prezzemolo mi fa, dopo che hai vippito, quelli che tenesi in corpo, ha finito di campare. E mi gelo tuo sangue. Pu, mi passetta, si vuole mettere un lietto. La notte mi sbutto, mi trovo stracata. Mi metto una mano in mia anzicamma. E mi c'è un secco da Inter, non gli dico lungo, lungo, lungo, lungo. Mi sento come se a Inter ci trasino curtiero. Non vuoi fare una l'anima? Mi grida una volta. Perché faccio io? Si è già fatta grossa. Si è fatta la croce. E poi farfugliavo qua a bocca, un saggio se preghiero castino, o forse l'una e l'avuto insieme. Poi mi fa settare sul tavolo della cucina, mi fa stenne camma all'aria, piglio con i cuori di fiera che c'è la orna a maglia, e mi ci punge da indo con la parte appuntita. Sudo freddo, non ce la faccio sta fermo, i gambi mi ballano la sola e mi arriva uno scafo, state ferma, te gli ho detto, un basta che muori se tu, c'è di pure per sotto. Venne da chiangi. Chi chiangi se mo? Ci avessi pensato prima, non mo, mi dice. E impara la mamma tua, di da sì con un aspetto. Si fermo due chianti. Me lacrime c'erano uno stesso. Pensalina da varata, che aveva morto sanguata, a quelle per miracolo salvata, a quelle con l'altro bucato, scacciato, arruinato. Alle dolore a morì che dicevano, e dolore che mo sentivo pure io, ed erano veramente dolore a morì. Ma forse stava veramente per morire, scusate. Che la capa mi girava, la coscienza mi abbandonava. A tu stai in, mi ha detto, a tu te ne stai scivolendo, mi ha detto, a tu te ne puoi, con i poi lassai, figlia, così. Ma gli strinto forte come una lutavola, un pozzo morì, mi ha detto. E gli è svenuto. E quando poi mi ha svegliato un'altra volta mi dice, mo aspetta la morragia, mi dice, e spero che non ti venga dalla freva. E se non ti passa la morragia o ti viene dalla freva, scappa subito all'ospedale. E se vuole sapere che è successo, gli dice se che è caduta sbattendo. Quella notte un piglio suono, tengo dolore a morire. Un mi ce la sa sulla faccia maritima, posso avere un bisogno, una necessità, posso avere pure bisogno all'ospedale, ma come se non avessi detenuto, un momento che avevo bisogno, sparì. Ma amore Gio non voleva sapere. Torno a tutta due fantasmi e vedo mi punge da capo. Tre volte ancora ci torna due fantasmi e mi fa punge da capo. Fino a quando ringrazio il cielo, amore Gio arriva. E che vi conto? Mi ricordo solo sangue, paura, dolore. Nella vini sangue c'è di lassato, lì a bagno. Che facevano andare via ogni 5 minuti, a me lavare, a me canciare, tante volte a rovesciare. Allo punto che quando qua la morragia è passata, mi sentivo all'ultimo stato, mi sentivo stremata. Lo stesso come mi sento mo, gli ho fatto a Gesù. Ogni volta che ho conto, mi sento all'ultimo stato, mi sento stremata. Mi guardavano tutti, Gesù, San Giovanni Battista, tutti quanti, tutti attenti con la faccia preoccupata. Ma ti scusa, gli ho detto io, ma mo tengo bisogno di un po' di riposo, gli ho detto io, se no non ci faccio di annante. Loro non hanno detto né una parola né niente. Hanno grapputo la porta, drrr, e gli è sud. Gli è tornato dritto alla casa, ma gli è inzicata sotto i coperti, gli è dormito, non so ci manchi quanto tempo gli è dormito. Ma alle 4-5 della mattina è nato da dà. Ah, così come la violassata, cosa gli ho trovato? Gli stessi posti, le stesse posizioni, le stesse espressioni. Come ti senti, si fa Gesù? Ora mi sento buono, gli fatti. Ma tanna zinzulosa si c'è accanita con me. Perché, fa Gesù? Credeva che siano finiti i conti miei? Manco un anno che mi avevi appungiuta e mi avevi senduta una tota male. Avevi compiata, hai fatto tanta. Non potevi stare anche seduta, tanto tu fastidio capire. E poi mi sembra perdete, perdete, perdete. Arrivavamo a Cosenza, Catania mi ha ricoverato a Cosenza. Con me c'era pure Rosito Nuzzo, che figlia aveva stato di nonna. Vieni tu un medico, mi visite e dice da Rosa, signora, state tranquilla, sta malattia 9 mesi. Che vuoi tu veleno? Mi ha fatto Rosito Nuzzo, che ci avessi a venire a fare allora? Ti dico di no, fazio io, se non ci venivo, ti dico di no. Non avessi stato con nessuno. Tu mi fai un'analisi in ospedale a Cosenza, tu mi fai un'analisi, ma non conto che tengo in mente fino a che campo. e poi mi portava veramente dolore a morire. I bravi gente che c'erano dalla stanza dicevano: dottore, dottore, la signora Vittoria, poverina, sta male. No, rispondevo, io comporto così. Un giorno dopo mi telefono Rosa: ma ti hanno fatto un conto, non ti hanno fatto niente, ma hanno fatto niente. E io ho detto: venite a raccogliere, che mi voglio raccogliere. Mi ho portato anche una tabanna. Subito sento l'infermiera, mi caccio il telefono a mano: no, no, no, no, domani la dobbiamo operare. E meno male, infatti, se no qua mi ci facevo morire. E quando poi ero presa mano operata, venne un medico, mi piglia la mano e mi dice: signora, mi dice, che bel pasticcio che avviese, mi dice, purtroppo ne vengono tanti che sono incinte davvero. E va avanti, dottore, infatti, mi facevo morire, pagato giusto per peccatore. O quando gli ho rimproverato brutto medico tanto, che dice che viene aspettare, che mi ci portato la gravidanza. Mi hanno operato e chi ci hanno trovato hanno pigliato. Ci trovavano un guagnone, pigliavano un guagnone. Ci hanno trovato fibroma, hanno pigliato fibroma. Oramai me l'era puta, no? Mi facevano morire brutta bestia. Dunque fanno analisi. In ospedale, a Cosenza, dunque fanno analisi. Mo. E poi mi sono tutto a buono. Mi hanno cacciato fibroma e mi sono tutto a buono. Solo che 2 anni dopo mi ha fatto un'altra volta e una volta mi è venuto a operare. Non a Cosenza stavolta, un paese. Quando i miei dicevano questo taglio di Cosenza hanno detto: signora, hanno detto, hai avuto un parto cesario? Non hai detto, hai avuto la stessa malattia di adesso. Allora ha detto il medico: dobbiamo fare lo strappamento. Ha detto il medico, perché se no l'utero è fibronilo. Ha detto il medico, e ci fanno un'altra volta. E poi di anno in anno te viene operà. Che facciamo? Ha detto. E gli è rimasto incantato. Cantava a capo a mio tempo. Si è fermato. Non so c'è più quante cose mi hanno passato in mente. Quante facce mi hanno passato in mente. Lina la varata, che aveva morto il sanguato. Lucia acqua tremola, che aveva morto il prezzemolo. Zangicca, che è rimasta zoppa fino a quando è morta. Luigina, Zastedda, Zacatarina, Carmela, Asciolla, tutti i facci loro mi hanno passato in mente, tutte quante, una gu, tutti i facci. Pure quelli di Marittima mi è venuto in mente, si è trasformata e è diventata qui di Vicenzo Bannuolo, poi Carmelo Brutti, Domenico Belli, Domenico Scendri, tutti i mascoli del paese. Si è trasformata, la tota è diventata la facci Marittima, si è trasformata la tavota. È diventata una bucca grande, sempre più grande, punata, nata ancora, sempre più grande, che dice sempre la stessa cosa: arrangiti, arrangiti, arrangiti. Allora, signore, che facciamo? Ha detto Mirko. Arrangiamo, così. Come arrangiamo? Ma cacciatelo tutti in da vendere, gli tutti, cacciatelo pure i stentini in da vendere, togliete, togliete tutto. E così è stato. Sulla capuccia gli è stata malamente. C'è di stare malamente perché ero troppo giovane, avevo ancora 30 anni, ero troppo guagnone, E mi hanno dovuto fare punture di ormoni. E ho fatto pile come una crapa. Che a prima pile una via, Una via per niente. Solo che mi ho già fatto troppa 6 punture. Mi hanno detto: assolutissimamente devi fare punture, che sei giovane impaccisci, sì. Poi devo sangue capo impaccisci, sì. E poi vedete questo impaccimento. Mi hanno coordinato i punture. Canafia mi ha tenuto in mestruazione, mi sa mise, io non ne potevo più, che mi hanno fatto un strappo. Per 3 anni mi ha aiutato a fare punture. 3 anni. Che avevo bollimento, troppo assai bollimento. Che se no l'utero non mi ha portato più niente. Dicevo che se mi avevano cacciato la prima volta è stata ancora più meglio. Mi bolle niente. Che quando sei giovane ti porta questa focura, sto cavodo forte. Ti senti come quando ti mettono a capo in un forno, ti senti se manca l'aria, ti senti un cucinturo da tutta la persona, fa che stai bruciando proprio. Che se no hai altre cose, non senti se niente. E c'è stato male in particolare perché ero troppo giovane, avevo ancora 30 anni, ero troppo guagnolo. che se ne l'utero non mi importava più niente. Credi di essere finito i conti miei? L'ho fatto a Gesù. Tutta l'ho contata, tutta la tragedia mia. I sventuri, i dolori, il rompimento, tutto. 5 giorni ci hanno dovuto contare tutti i fatti. Che quando poi ho tornato in paese, la gente mi hanno detto: Vittor, ma dove ti finisci tutti questi giorni? Pensavo che ti avessi perso. E ho sacerdo a tua aiuto a finisce, gli ho detto, ma che vuoi conto a fare? Non mi credere nessuno. E per conto avrà mai crede, hanno fatto gente. Ma anche avessi aiutato l'altro mondo, ha stato proprio una specie, ha stato proprio una specie questa. Tutto ha di contato a Gesù. Entramenti i conti avevi fatti miei a Gesù, gli cangiava la faccia. A prima vi arrabbiata, come quando vi è arrivata. Ha fatto la faccia maravigliata, pur dispiaciuta, che avrei quasi quasi che scappato due chianti. Canaglio pure detto, non ce la fa così, però, se no non posso più contare niente. Pur si è accalmata, si è distesa tutta quanta, e alla fine si è serenata di tutto. Ma tanto che si è serenata, che ha fatto una luce così forte, come vedi più niente. E quando pur avevi potuto vedere un'altra volta, aveva sparito. Ha di guardare a prima queste persone a destra e poi queste persone a sinistra, eppure la faccia loro un ritiro arrabbiato, muovendo un sorriso splendente, ma così splendente che mi ci cavano lui. Eppure con loro la stessa cosa, quando ha di graputo un'altra volta, pure loro hanno sparito tutto quanto. E insieme a loro aveva sparito pure la seggia vacanta. Senta la porta che si grappa da rieto, esce dalla porta e vede che ha fatto una tota di giorno. E allora invece torna alla casa, me ne va un'altra volta diretta in campagna, coglio tutti i fichi bianchi e pozzo, faccio tante razionette, uguale uguale, e porto casa per casa. E porto alle figlie il rosito nuzzo, a Carmela Pelaghedda, alle sette Trinchietto, a Zacatina Giacchina, a San Gicca, a Luigina, a Zastella, a tutti quanti. Mi hanno ringraziata, come ha dato un conto e cunato, e nessuno ha voluto più sapere quel giorno. Né a due estate, né che avevo fatto, né niente, che avevano capito che non avevo voglia di parlare. Credevo che se ne finite conti miei, l'ho fatto a Gesù. Ho contato tutta la vita mia. 5 giorni ci hanno voluto venire a contare tutta quanta. Ma poi alla fine mi ha combattuta. Al principio era arrabbiata, ma poi alla fine mi ha combattuta. Allo contrario di voi, non ti combattisce nessuno. Come è successo alla nipote da me, a figli e figli a me. Capito? Avete andato un calvario, servizio sanitario. Hanno passato a rivista tutti i santi ospedali della provincia di Cosenza, tutti i santi ambulatori che ha fatto Gesù Cristo, tutti i santi medici della Calabria, hanno passato a rivista senza conchiudere niente. E a tutti i parti c'era qualcuno che non poteva fare, qualcuno che non voleva fare, qualcuno che ti voleva parlare, non aveva niente da parlare. Gli ho detto, a ognuno zin, tene 15 anni, la decisione l'abbiamo fatta, non aveva niente da discutere. La pacienza mette pure un limito. Uccidendo mio, è una carta velina, tira, tira, tira, tira, alla fine si scugni, e tira, tira, tira, tira, alla fine si scugni pure tutta la santa pacienza del mondo. Capuno mio che abbiamo pure trovato, lo stesso in ospedale al contrario, ma la casa a contrarizza gli passava, e non è che non abbiamo fatto i soldi, che i soldi abbiamo per noi stessi, gli ammalati. Con voi che faccia una cosa mucciata, non puoi mai sapere, può succedere una cosa, una complicazione, e la guagnona ci muore, ci muore. La guagnona si sta facendo sempre più grossa, quindi abbiamo tutti gli aperti. Allora, a parte a prestito, a parte all'emosina, a parte di tutto loro capire, con ci ho pensato manco di voto, a parte la catenina cuore di Gesù. Che quello mi ha regalato mamma quando gli ho nato. E quello mi ha dispiaciuto. Ma pure questo me ne ha portato niente. Ha scuoto tutto quello che c'era da scogliere, ha portato a Milano. Per quelli che ti dico facendo una clinica pulita, disinfettata, con l'alcol e tutto. Non come a me, una vecchia fantasma, aspra, che manco. Niente a tutte quelle sporcizie che se ci penso mi c'è scuro tuo cuore. Che sapiesi che ci tresse si viva e non sapiesi se ne si è smorta. Capo pure a malana quando la tocca l'aria. Che infermiera manco non guardavano quando trasino da stanza. Anche se avessimo la pesta. E quando ne guardavano storto. E quando ne parlavano, cagognona, se ci avete pressa. Sono una infermiera, ha avuto un cuore, si avvicina alla guagnona, ha accarezzato i capelli e ha detto, ma sei proprio una guagnonetta, come la scordo mai, la gentilizia che ha avuto. Cad in paraviso la gentilizia che ha avuto. Cadda, la guagnona ha pigliato coraggio. Ma poi mi domanda, puoi mettere una guagnona con un buon figlio nella stessa stanza di quelli che aspettano? E con quale coro gli mette in braccio una guagnonia da appena nata? Allora che ci sta a fare la guagnona? O ci può stare o non ci può stare? Ma se ci può stare, una poi manca sta punge continuatamente però. Che quando loro la guagnona è un assassino. Che così hanno trattata come un assassino, un mostro. Ma voglio essere un assassino, una guagnona di 15 anni. La guagnona non ha mai fatto male a nessuno. Eppure ci hanno fatto sente. Ha cominciato il mio conosco, ha finito quelli di ambulatori di spettacolo. Con una vedia, no? La sofferenza che via. Ci vuole andovina la sofferenza che via, Si è fatto un coro forte, ha pigliato la decisione, a malincuore mi ha pigliato. Non c'è mica arrivato il renno, non ha fatto mica a coro crudo quello che ha fatto, non si c'è mica divertuta, non si c'è divertuta né prima né dopo. Ha fatto con una brezza lo stesso destino tuo mio, che si pensava, non ha saputo la vita che gli ho fatta. Non ha saputo, non ha pure visto tutti i santi giorni la vita che gli ho fatto. Che si pensava? Un mascolo si c'è forse vertuto. Che i mascoli se ci divertono sempre. Se ci divertono e non pensano a niente. Ne vedete mascoli insieme a noi? Questo avrà voluto dire. Ne vedete mascoli? Che con loro venne a parlare con i fiamme all'ospedale. Allora venne a fare scuola, allora venne a polare giudice di virgo, per quando porcherie tenendo in capo. No la guagnola. E non pure a me. Che pure a me me lo fa essendo un mostro, a conto loro pure un assassino. Ma la guagnola avrò assassinata, se ci avrò costrinta, se ci avrò costrinta a fare una maniera o a fare un'altra. Che per tutta la vita meglio è stata costrinta, per tutta la vita meglio è stata assassinata. Che è sempre lato, non dice sempre mio. Ca, se avrò scelto io quello che è giusto per me, non avrò fatta la vita che gli ho fatta. Ca, l'aborto mio non è stato solo quello che gli ho fatto due mamma. L'aborto più grosso, quello che ha acceso tutta la vita mia, gli ho fatto a 15 anni, un giorno che gli è rimasto incinta. Casa ci, la vita che gli ho fatto. Casa ci. Io asaccio. E basta. La compagnia Scena Verticale presenta lo spettacolo L'Aborto di e con Saverio La Ruina, musiche composte ed eseguite dal vivo da Gianfranco De Franco.

però sempre in modo collaterale, legandosene insomma della contingenza, ecco, non siamo costretti ad attingere ai soldi di chi la pensa in modo contrario a quello che pensiamo noi, insomma, come fanno certi scrittori che fanno per la maggiore attraverso la loro menzogna. Beh, noi raccontiamo la sintesi della realtà, quindi senza riferimenti epocali. Solo la sintesi ideologica. Non facciamo i soldi con i soldi dei fascisti, questo non l'abbiamo mai fatto, insomma. Ma non perché, cioè, l'Italia è tutta una grande destra, quindi non si sa più dove attingere. Due spettacoli, Bahamut e Amelante, il primo in scena dal 7 al 12 gennaio, il secondo dal 14 al 19 gennaio 2025 a Roma al Teatro Vascello. Un saluto e un ringraziamento ad Antonio Rezza e Flavia Mastrella, ci vediamo lì. Grazie Federico. E ciao a tutti, anche gli ascoltatori. Ciao. I famosi radioascoltatori. Tutti i radioascoltatori. Ciao. Grazie, ciao. Con Claudio Morici, autore e interprete dello spettacolo La malattia dell'ostrica, in scena a Roma, Teatro Biblioteca Quarticciolo, 10 e 11 gennaio 2025. Ben trovato! Un saluto a tutti, ciao, grazie. Cos'è questo lavoro? Questo è uno spettacolo, poi è anche un libro per il Fandango e un podcast che con lo stesso titolo, La malattia dell'ostrica. Praticamente nasce dallo stesso concept, questa specie di operazione. A un certo punto io, facendo dei video per una trasmissione sugli scrittori di RaiPlay per alcuni anni, così mi accorgo che sono tutti matti. E a quel punto mi dico, ma com'è possibile? Mi leggo anche i libri sul settore specifico che correvano la malattia mentale alla scrittura di grandi capolavori e vedo che in effetti è proprio così, ci stanno delle percentuali notevoli che correlano queste due cose e piano piano mi chiedo perché. E questo tipo di ricerca nasce dal fatto che mio figlio di 6 anni mi dice che vuole scrivere, vuole diventare scrittore. Io dico, cazzo, questi sono tutti matti, che fine gli faccio fare a questo mio figlio? E nel mio rapporto con mio figlio, che poi arriva fino a quando lui ha 14 anni, così io cerco di non farlo leggere, di non fargli imparare le poesie a memoria, di vietargli proprio la penna. Così io mi riapproccio al perché sono stato salvato dai libri di quando ero giovane e piano piano mi riconcilio. Mi inoltro nel mistero della letteratura e della scrittura che in qualche modo ci aiuta nella vita e ci salva per motivi che tutti sappiamo ma che a volte dimentichiamo. Come lo hai articolato lo spettacolo? A differenza degli altri miei spettacoli, io di solito faccio degli spettacoli che sono dei reading, sempre sarà un po' la mia cifra, così. Questo spettacolo invece è diverso, diciamo, è un monologo, io alterno i momenti di dialogo con mio figlio alla storia di quando io ero giovane e andai dal mio primo psicanalista, e queste sono dei reading di schede biografiche sulla vita di alcuni grandissimi scrittori. È come se ci fossero 3 postazioni e io racconto questa storia alternandole. Quali sono gli scrittori di cui ti sei occupato? Nel podcast sono 10 scrittori diversi, ognuno con una patologia psichiatrica più o meno diagnosticata, e parlo soltanto di loro in ogni puntata, poi intervisto uno psicologo o una psicologa, uno psichiatra su quel tipo di malattia, così, e quindi sono quasi delle monografie. Nello spettacolo ne ho selezionati alcuni, tipo Wallace, oppure Balzer, Burroughs, Kerouac, che mi servono per raccontare la storia. Poi le video biografie che io feci per RaiPlay sono, diciamo, forse pure un centinaio, perché l'ho fatta questa trasmissione per 3-4 anni. In realtà ho dovuto selezionare degli scrittori in base al racconto. Ecco, ci sarebbero state miliardi di altre situazioni che avrei voluto raccontare, però ovviamente non si può. Magari lo faremo col podcast nella nuova serie, continueremo. C'è qualche altro elemento che li accomuna oltre alla scrittura e al disagio mentale? Molte volte negli scrittori del Novecento c'è quest'altro elemento molto importante, che forse è l'unico, no, anche ironicamente, no, nello spettacolo, è l'unico caso in cui puoi scrivere un capolavoro senza avere un disagio mentale fin da piccolo. E questo elemento è aver fatto la guerra. Cioè, se hai fatto la guerra, puoi scrivere delle cose incredibili anche senza essere pazzo. La guerra in sé è un'esperienza che ti rende pazzo in qualche modo. E in questo caso specifico parlo di Salinger, ma ce ne sarebbero tantissimi altri, ecco. Però il trauma post bellico è un altro fattore, diciamo, pure se ci pensi anche Gadda, insomma, tantissimi, Silone, cioè aver vissuto in quella generazione ti crea un'esperienza. Pensa la differenza, c'è tra una persona che ha visto la guerra e una che non l'ha vista, se devi scrivere un romanzo. È tutta un'altra cosa. Poi ovviamente esistono altri casi in cui il disagio mentale sconfina e forse scavalla e forse diventa un'altra cosa con l'emergenza spirituale, cioè l'esperienza di una persona quasi mistica e per cui poi quelli che potrebbero essere dei sintomi in qualche modo nella sua vita, nella sua biografia, in realtà assomigliano quasi all'iniziazione sciamanica. E quindi il desiderio di comunicare con tutti e di trasformare l'esistenza e di rendere consapevoli persone lontane da te, che magari sei morto da 30 anni con uno scritto, diventa un'altra cosa, ecco, più misteriosa e che però non può essere associata a un vero e proprio disagio mentale e basta, ecco. Ci dai dei riferimenti web per saperne di più? Lo spettacolo, adesso lo faccio al Quarticciolo, però gira l'Italia da un poco meno di un annetto. È stato fatto anche all'Auditorium a Roma, insomma, sui miei social ci sarà il calendario che si aggiorna man mano, perché girerà per tutto il 2025. Il podcast lo trovate su Apple, su Spotify, intitolato La malattia dell'ostrica, ed è andato benissimo. È stato in classifica su Spotify tra i primi 20, è stato primo nella classifica Apple categoria libri per tanti mesi, insomma tanta roba per un podcast, se parla di libri e non di morti ammazzati in maniera sanguinolenta o roba crime oppure cose di questo tipo. E poi il libro sta in libreria, Fandango Libri. Lo spettacolo La malattia dell'ostrica in scena a Roma al Teatro Biblioteca Quarticciolo, 10 e 11 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento all'autore e interprete Claudio Morici. Alla prossima! Ciao a tutti, grazie a te, ciao! Con Maria Eugenia D'Aquino, curatrice dell'ottava edizione del Festival Scienza in Scena, a Milano al Pacta Salone dal 7 gennaio al 21 febbraio 2025, ben trovata. Grazie, ben trovati a tutti e a tutti gli ascoltatori. Cos'è questo festival? È l'ottava edizione dell'unico festival di teatro e scienza a Milano e che insomma dopo 8 anni si è molto ingrandito, accoglie sempre più proposte e permette sempre di più di filtrare attraverso gli occhi della scienza un po' tutte le espressioni del pensiero umano. Infatti è un viaggio pazzesco quello che facciamo quest'anno, proprio passiamo dallo spazio alle grandi donne di scienza, ai prodromi del computer, della programmazione, della tecnologia, all'intelligenza artificiale, all'antichità, alle piramidi cinesi con l'esercito di Xi'an, la poesia scientifica, insomma, chi più ne ha più ne metta, c'è un panorama molto vasto. Com'è stata la scelta artistica? La scelta delle nostre produzioni segue un po' i filoni che a noi sono cari. C'è una ripresa perché Echi di Luce è lo spettacolo che ci ha prodotto l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Abbiamo debuttato con questo l'anno scorso e lo riprendiamo. E poi abbiamo una produzione nuova che segue un po' il filone che io perseguo da anni, cioè quello di raccontare le grandi donne di scienza. Quindi le nostre scelte sono motivate un po' dalla direzione così che vogliamo prendere e dalle storie che vorremmo raccontare. Sulle ospitalità mi arrivano tantissime proposte. Ogni anno faccio delle scelte un po' legate a quelli che sono appunto i temi, l'universo, le donne, le grandi storie, quindi anche quest'anno ospitiamo ormai la Compagnia del Sole di Bari con i loro spettacoli cult, quest'anno su Galileo, e poi Sara Urban, che è un'attrice che abbiamo già ospitato, che ci racconterà Grey's Anatomy, una storia di un'altra donna straordinaria, appunto Io sono la poesia, le poesie meravigliose di Margherita Rini, che è una neuropsichiatra infantile e che sono tratte da una sua raccolta proprio di poesie dedicate alla scienza. riprendiamo i nostri appuntamenti al planetario, perché alcuni di questi appuntamenti sono al planetario, come quello dedicato all'esercito di Xian, i guerrieri di terracotta dell'antica Cina, e il cielo di Ipazia, cioè il cielo di Alessandria d'Egitto ai tempi di Ipazia, con delle incursioni in questa scienziata molto rappresentata da noi. Abbiamo gli appuntamenti per i bambini, i cavoli a merenda e il dottor Jekyll e Mr. Hyde, poi gli incontri all'Aprecu, che è questo bistrò culturale milanese molto bello, dove presenteremo il libro che sarà poi il protagonista della nostra nuova produzione sulla vita di Émilie du Châtelet, e poi un altro incontro con il filosofo Giuseppe Giorgenti, che ha scritto un libro che è diventato un bestseller, Umano, poco umano, la risposta filosofia all'intelligenza artificiale, che si confronterà con Davide Bennato, che è uno dei maggiori esperti di social media in Italia. Il programma si trova ovviamente sul sito, molto dettagliato, pacta.org. E gli appuntamenti sono la maggior parte al Pacta Salone, nel nostro teatro, e poi in giro per la città, alla Precu, al Planetario. Come al solito proseguono anche i grandi partenariati del Politecnico, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, del Civico Planetario, dell'Università di Berkeley. Abbiamo sempre i nostri sostenitori che condividono con noi anche in termini di consulenze, eccetera, i nostri progetti. Come funzionerà rispetto ai giorni della settimana e quante repliche per ogni spettacolo? Alcuni spettacoli hanno due repliche, altri, La doppia vita di Émilie, che è dedicato alla Du Châtelet, che è la nostra nuova produzione, avrà cinque repliche. Diciamo che la media si aggira sulle due, tre repliche, a parte qualche eccezione. Alcuni invece sono a una data unica, tipo gli appuntamenti al Planetario. Nel periodo dal 7 gennaio al 21 febbraio coprono un po' tutti i giorni della settimana. Ottava edizione del Festival Scienza in Scena, a Milano al Pacta Salone dal 7 gennaio al 21 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Maria Eugenia D'Aquino. Alla prossima! Grazie, alla prossima! Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone, buon anno. -2, -1, no, non è vero, Capodanno è già stato, ma noi è la prima volta che ci sentiamo all'anno, quindi insomma buon anno a tutti i nostri ascoltatori e le ascoltatrici, e andiamo un po' a vedere quale teatro ci offre Roma per questa prima settimana nostra, mia personalmente, dell'anno. E allora partiamo dall'Ambroio Vinelli, perché c'è un ritorno, quello di Filippo Tini, che da questa sera viene a Roma con il suo Amleto al quadrato, una rilettura del capolavoro shakespeariano, chiaramente, in cui ogni gesto, ogni parola diventa gioco, voce personale, una provocazione intelligente. Insieme a lui sul palco ci saranno Lucia Mascino, Marina Rocco, Elena Lietti, Gabriele Brunelli, insomma un lavoro che già avevamo visto a Roma nelle scorse stagioni e che torna con questo gioco teatrale un po' anarchico di comicità surreale e dramma intimo contemporaneamente, quindi insomma una lettura del testo shakespeariano particolare, Amleto al quadrato, dal 7 al 12 di gennaio all'Ambra Iovinelli. Poi la stagione in danza di Orbita Spellbound, che si chiama quest'anno In Levare, inizia proprio dal 10 gennaio, sarà in vari spazi, al Palladium, al Spazio Rossellini, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, e comincia proprio questa settimana con una coreografia firmata da Enzo Cosimi, precisamente il 10 di gennaio, al Teatro Palladium, Venere e Adone, questa rilettura attraverso i linguaggi dei diversi media di quello che è il celebre poema shakespeariano, appunto Venere e Adone, torna quindi Shakespeare. E nel nostro discorso il coreografo Enzo Cosimi collabora qui con la drammaturga Maria Paola Zedda per questa coreografia che insomma andremo a vedere il 10 di gennaio al Teatro Palladium per cominciare la stagione di Orbita Spellbound. Si procede perché al Sala Umberto arriva questo testo scritto e diretto da Tommaso Agnese, con vari attori, tra cui ricordo Claudia Vismara, Il professionista nella mente di un sicario. Si tratta di una dark comedy interpretata anche da Luigi Di Fiore, Antonino Iorio, Edoardo Purgatori, cioè anche altri attori chiaramente. La confessione di un sicario che per amore tenta di cambiare vita, allontanandosi da un mondo maschilista e violento, ma che alla fine, insomma, è costretto a tornare sui propri passi. Questo è quello che vedremo alla Sala Umberto dal 7 al 12 gennaio. Poi procediamo ancora, perché alla Fortezza Est comincia la stagione 2025 e si apre nuovo anno con la compagnia Secondo Nome e lo spettacolo Spettro Variabile, che sarà in scena dal 9 all'11 di gennaio. Un lavoro particolare, insomma, in cui il suono analogico e il video digitale vengono manipolati in tempo reale, creando una risonanza nel corpo del performer. Quindi, appunto, un lavoro performativo che ha a che vedere con il dialogo tra movimento, suono e immagine luminosa, esprimendo linguaggi poetici ed elementi espressivi in continua relazione tra di loro. Quindi, questo progetto performativo firmato dalla compagnia Secondo Nome, con il movimento di Nunzio Perricone, poi Alessandro Floridi e Ivan Gasbarrini a suono e video, alla Fortezza Est, 9-11 di gennaio. E procediamo al teatro Altrove, Teatro Studio, dal 10 al 12 gennaio. Ottavia Bianchi scrive e dirige insieme a Giorgio Latini questo testo che si chiama Una culla sbagliata, con la stessa Ottavia Bianchi e Loredana Piedimonte. 10-12 gennaio per vedere questo lavoro, che ha a che vedere con il particolare linguaggio della poesia. Che non è un posto da nascondersi, dice l'autrice, è un luogo in cui ritrovarsi. E il lavoro che ha a che vedere con il passato, che permette di, attraverso la poesia, insomma, di parlare con i morti, è ispirato dal bestseller della scrittrice britannica Janet Winterson, Perché essere felice quando puoi essere normale, e in parte è autobiografico. Narra la storia di una vita difficile, quella di Janet, in bilico tra il fanatismo religioso della madre adottiva e la scoperta della vera se stessa, e finché troverà poi il riscatto grazie all'amore per la letteratura e per la poesia. Dal 10 al 12 gennaio, Una culla sbagliata, Ottavia Bianchi, Altrove, Teatro Studio. E poi al Teatro Basilica, Mauro Lamantia, con questa regia di Matteo Gatta, porta in scena dal 9 al 12 gennaio questo spettacolo Gramsci Gay, un spettacolo chiaramente provocatorio. La notte del 10 novembre 2019 è stato deturpato un murale raffigurante il volto di Gramsci sul carcere di Turi a Bari, dove il filosofo Sarno lo scorse 5 dei suoi 10 anni di prigionia e si scrisse gran parte di quei anni nel carcere. Una mano anonima ha scritto gay sulla fronte con l'acrolico, sulla fronte con l'acrilico rosso. Gramsci gay è diviso in due quadri. Nel primo quadro siamo nel 1920, un Gramsci, insomma, inizia il suo grande lavoro che porterà alla formazione nel giro di un anno del Partito Comunista Italiano. Il secondo quadro invece è ambientato ai giorni nostri e ha a che vedere proprio con il vandalo del murales di fantasia, colto in flagrante e trascinato per un interrogatorio in commissariato, molto diverso da quello che ci aspetta. Dal 9 al 12 gennaio, Teatro Basilica, Gramsci Gay. Poi ancora qualcosina, Spazio Diamante, Giampiero Raffa porta questo lavoro di Benedetta Nicoletti nella Sala White dal 9 al 12 di gennaio. Uno spettacolo che rimette al centro un teatro etico ed estetico, che cerca di sensibilizzare su un tema molto forte di impatto, molto forte sanitario e sociale, quello dell'Alzheimer, e così creare bellezza. Ecco, questo è un tema molto particolare, quindi con molta delicatezza avviciniamoci a questo spettacolo con la regia di Giampiero Raffa, 9-12 di gennaio, lo Spazio Diamante, per Intorno al Vuoto. Ancora, Carrozzeria Notte, 10-11 gennaio, Strada Maestra, Nardi Nocchi, Matkovic, entrano nelle domande che ci poniamo spesso a contatto con la natura. Esiste un patto tra noi e la natura? riusciamo ad osservarla, è ancora un nostro interlocutore o interlocutrice a memoria, noi siamo città o natura. Quindi ecco, attraversando diverse regioni italiane in ogni territorio, intervistando persone che vivono e lavorano a stretto contatto con la natura, i due artisti hanno cercato di evidenziare il rapporto con i luoghi attraversati e darsi come obiettivo quello di osservare tutto in modo oggettivo, sospendendo il giudizio sul rapporto, appunto, che l'essere umano ha con la natura, questa antropizzazione che porta poi talvolta a una esagerazione tale che si perde di vista l'esigenza poi del contesto naturale ambientale. 10-11 di gennaio, Carrozzerie Notte per Strada Maestra. Al Teatro Argentina invece arriva Tony Servillo con questo testo messo insieme da Giuseppe Montesano dall'8 al 19 gennaio, Tre modi per non morire. Tony Servillo al leggio che ci racconta Baudelaire, Dante e i Ricci greci, quindi dall'8 al 19 gennaio chi avesse questa particolare propensione troverà Tony Servillo pronto. Servillo, vabbè, l'ho detta. Allora, mentre invece la Cometa Off, 8-12 gennaio, quindi da domani, la regia è di Maurizio Marchetti, in scena Sabrina Marchetti, eccoci qua, Davide Marchetta è l'autore del testo, Ludopatica è colei che ha un serio problema con la dipendenza dal gioco e si tratta di un monologo. Sandra sbarca nella capitale, la sua ludopatia a contatto con la grande città esplode a tutti gli effetti con le conseguenze del caso. 8-12 di gennaio, Cometa Off. Ancora pochissime cose da ricordare, segnalo che al Teatro Biblioteca Quartizzolo inizia il nuovo anno con Claudio Morici, 10-11 di gennaio, con La malattia dell'ostrica, che abbiamo di recente visto all'Auditorium Parco della Musica, questo spettacolo che è anche un libro, che è anche un podcast bellissimo, che si interroga sulle vite travagliate di figure di grandi autori come Pavese, Sargari, come Philip Dick, come Virginia Woolf e tante altre, tanti altri, per capire una cosa. Ma questi grandi autori di cui studiamo le opere, li faremo incontrare ai nostri figli, in qualche modo la vita di queste persone è una vita poi così esemplare, sono morti suicidi, si sono ubriacati, sono drogati, hanno fatto le cose più assurde e cose peggiori e hanno un destino tragico. Li faremo incontrare i nostri figli, li prenderemo a modello, questo è quello che c'è alla base, ma poi c'è anche tantissimo altro nella malattia dell'ostrica di Claudio Morici, venerdì 10, sabato 11 gennaio, Teatro Biblioteca Quarticciolo. Ultima segnalazione è quella che ci porta al Teatro Vascello, perché ritorna a Roma Antonio Rezzo e Flavio Mastrella, questa settimana, poi ci sarà anche la prossima, con il ritorno del grande spettacolo, ma di un po' di tempo fa, Bahamut, che appunto torna al Vascello, dove era già stato dal 2006 più di una volta, ed è un'opera liberamente associata al manuale di zoologia fantastica di Jorge Luis Borges, in una scatola senza pareti che amplifica il supplizio del corpo, cioè un uomo che trascorre l'agonia che lo porterà a una nuova vita fatta di rigurgiti tribali, storie trapassate, inquinate da assilli contemporanei. Si tratta di una danza all'interno di un habitat, dei salti verticali, degli spasmi, insomma, Antonio Rezza non può essere raccontato, va semplicemente visto. Dal 7 al 12 di gennaio, Antonio Rezza, Flavio Mastrella, che in scena c'è a lui, insieme a Manolo Muoio, Nelson Visto Dos Santos, che ha detto proprio la grande, stavolta che è, ecco, Bahamut, 7-12 di gennaio, Teatro Vascello. E con questo abbiamo concluso. Ciao a tutti, auguri! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.